signore e signori, siamo qui con questo orario nuovo che è ancora un po' da rodare, in rodaggio, ma ce la faremo, quello delle 17.30. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Marco Della Barba e Andrea Moraldi, il professor Andrea Moraldi, entrambi dell'Università di Trento, che ci presentano il libro, che è già arrivato alla seconda edizione, Introduzione alla storia moderna. È un ciclo di conferenze questo a cui diciamo la biblioteca tiene molto, e in particolare anche gli argomenti relativi alla storia moderna, che ci tocca anche direttamente come collezione di libri che abbiamo in biblioteca, per cui abbiamo anche preparato un breve saggio, un piccolissimo saggio di quella che è la nostra collezione legata al tema di questa sera, quindi si parlerà della prospettiva di ricerca nel contesto del mondo globale. Per quanto riguarda le altre attività della biblioteca, approfitto di questo momento prezioso per ricordarvi che la prossima settimana abbiamo un'iniziativa intitolata La musica siamo noi alle 17.30 in questa sala con Maria Rita Di Pasquale e Gianni Galassini. Ci sarà anche un intrattenimento musicale. Poi il 29 marzo avremo invece Maria Paola Asson con Marinella Michelotto, Fiabe di primavera. E infine vi ricordo la novità di quest'anno, sono i due gruppi di lettura, uno dedicato alla narrativa locale che si intitola Localmente e ci si riunisce ogni una volta al mese, il prossimo appuntamento è il 12 aprile dalle 17.30 alle 18.30. Un altro gruppo di lettura si intitola Tutti i saggi e il prossimo appuntamento è il 19 aprile, sempre alle 17.30. Questi sono gruppi interattivi, non sono presentazioni di libri frontali, ma c'è proprio un coinvolgimento dei lettori e delle lettrici che dialogano con una persona che conduce un po' il gioco, ecco, diciamo così. Scusatemi, devo un po' di pazienza, ma siccome la nostra missione è quella di promuovere la lettura, allora approfitto di questi momenti preziosi e basta dire che poi finiamo veramente con la prima settimana di aprile, il 3 e il 5 di aprile, dove abbiamo due appuntamenti. Il primo è con Alessandro Costazza, che ci parlerà del suo nuovo libro I perpetratori della Shoah, e sarà accompagnato in questa presentazione dall'avvocato Arnaldo Lone. E invece il 5 aprile avremo Carlo Romeo, che ci presenta il suo nuovo libro dedicato alla storia della letteratura di confine. Bene. Basta. Ok, perfetto. Grazie. Lasciamo la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora di questa bellissima serata, e a voi la parola. Grazie. Grazie mille Valeria, gentile e solerte padrona di casa come sempre. Resto sempre stupito dalla quantità di iniziative che vengono proposte da questa che non è una biblioteca in senso tradizionale, insomma non è soltanto custode di libri, di scritti come fanno le biblioteche, ma fa molto molto di più, al punto che abbiamo fatto fatica a inserire la nostra proposta nel ricchissimo calendario della Claudia Augusta. Quindi grazie a Valeria per averci dato questa possibilità, grazie a Fabio Ferrarese, che oggi è il nostro angelo custode, che ci segue in questa presentazione. Allora, questo è il primo incontro di un ciclo di incontri organizzato insieme tra la Biblioteca Claudia Augusta in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, con l'intento di dare un po' una panoramica su alcune attività che vengono svolte all'interno del Dipartimento e in relazione a temi che sono temi di interesse generale. Ci saranno quattro incontri, questo vi dicevo è il primo. Poi il 30 ottobre, quindi saltiamo l'estate e andiamo ormai all'autunno, ci sarà Giuseppe Albertoni, che è uno storico che lavora a Trento ma di origine altoatesina, che presenta dal titolo Medioevo, studiare la storia superando i luoghi comuni. Anche qui sarà occasione per presentare un'introduzione alla storia medievale curata da Albertoni. Il 20 novembre invece ci sarà Maurizio Giangiulio, che presenterà un incontro dal titolo I Greci e Noi, e con la presentazione della sua introduzione alla storia greca, quindi un altro volume importante. E alla fine, l'11 dicembre, ci sarò io, storico economico, un po' un outlier rispetto a questi, con una conferenza dal titolo Il valore e il governo della moneta, l'inflazione ieri e oggi, con la presentazione anche di un volume di ricerche che è stato fatto qualche anno fa, un confronto tra l'Italia e l'Austria dopo la prima guerra mondiale, i problemi di natura monetaria ed economica che hanno affrontato queste due realtà. Quindi vedete un po' dall'impostazione, l'intento è quello di parlare di storia, ma parlare di storia con una proiezione importante sul presente, no? L'idea di utilizzare l'analisi storica come un elemento di riflessione per la nostra condizione attuale, quindi cercare un po' di stringere questo nesso. Ma al di là di questo c'è anche appunto l'intento di stringere una collaborazione tra enti culturali che operano sullo stesso territorio. Mi ricordo una ventina di anni fa, insomma, si discuteva sul fatto che le istituzioni che si occupavano di ricerca storica sul territorio erano tutto sommato limitate, molto più presenti in provincia di Trento che non in provincia di Bolzano, per esempio, no? Poi le cose sono un po' cambiate da questo punto di vista, per fortuna le cose sono un po' sviluppate, adesso abbiamo un centro di competenza per la storia regionale all'Università di Bressanone che sta producendo cose importanti, abbiamo l'associazione Geschichte und Region, Storia e Regione, che porta avanti il suo programma editoriale e di iniziative, ci sono tante altre iniziative che vengono ospitate anche in questa sala, però spesso c'è un po' di difficoltà nel creare rete, no? tra queste cose, quindi ci è sembrato particolarmente importante creare questo nesso anche tra Trento e Bolzano, no? Che è una di quelle cose che magari in passato aveva funzionato bene, oggi funziona forse un po' meno, e quindi questa è un'occasione importante per legare queste cose. E i temi che intendiamo presentare qui sono temi sì generali, perché qua si parla di un'introduzione alla storia moderna, poi ci sono un'introduzione alla storia greca, però sono temi che sono forse un po' al di fuori di quelli che sono ricorrenti nel dibattito storiografico locale. Il dibattito storiografico locale che spesso, e anche nelle presentazioni e negli eventi pubblici, è incentrato su temi come la guerra, il fascismo, l'autonomia, eccetera, che sono temi cruciali, importantissimi, intendiamoci, però che corrono un po' il rischio di diventare ripetitivi, no? E quindi di ingabbiarsi in una sorta di liturgia che magari può essere rassicurante per alcuni versi, ma con un po' il rischio poi di non riuscire a proporre più punti di vista nuovi. E quindi il tentativo che si vuole fare è quello di proporre anche un punto di vista un po' diverso, no? dei temi un po' più ampi che ci aiutino ad avere nuovi spunti di riflessione. Leslie Paul Hartley era un intellettuale eclettico inglese, un personaggio molto, molto british, e ha coniato un aforismo molto noto che è quello che dice che il passato è una terra straniera nelle quali le cose si fanno in modo diverso, un aforisma molto citato, utilizzato anche da Gianrico Carofiglio per un suo romanzo nel 2004 che ha avuto molto successo, è diventato anche un film, eccetera. E come nei viaggi in terre straniere, quando anche confrontandoci con la storia siamo incuriositi dal diverso, no? Da quello che troviamo di diverso rispetto a noi, anche se poi spesso guardando bene troviamo dei temi, degli elementi di affinità con noi stessi che ci aiutano anche a capirci un po' meglio. Ecco, in questo senso l'idea che vogliamo trasmettere con questo ciclo di incontri è che la storia offre spesso spunti cruciali per capire come sia costruito il codice genetico del presente, anche con delle diversità significative che sono importanti da comprendere. E qui lo facciamo confrontandoci con alcune importanti pubblicazioni recenti, vi dicevo, che non soltanto offrono una panoramica dello stato dell'arte, cioè dove è arrivata la ricerca da questo punto di vista, ma lo fanno anche in modo critico. Troverete una storia moderna, una storia medievale, una storia greca, ma affrontata con un taglio particolare che riflette un po' una sensibilità che per molti versi è tutta contemporanea, che dimostra come la storia possa essere capace di raccontare cose nuove anche se tratta temi vecchi. E al di là dell'amore che abbiamo per la disciplina, penso che poi questa sia una questione anche che è legata al fatto, alla questione della cittadinanza in qualche modo, no? Noi siamo stretti come diceva un collega, dall'assedio del presente, da notizie, da emergenze, da protagonisti che si susseguono rapidamente, no, nel dibattito pubblico senza il tempo di ragionare, e facciamo un po' fatica a cogliere l'essenziale di questo discorso. Basta che quel dibattito politico di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, in cui la regola sembra essere quella darci oggi la nostra polemica quotidiana, no, che possa portare un po' di titoli, una polemica che per qualche giorno sembra affrontare una questione esistenziale irrinunciabile e dopo una settimana ce ne siamo dimenticati perché arriva la polemica successiva. Forse si tratta di un dato generazionale per chi come me era abituato ad altri tempi, a una comunicazione condotta in modo diverso, ma la sensazione è un po' una sensazione sgradevole che si ha, no? Cioè il rischio è quello di essere un po' a corto di chiavi di lettura critiche e quindi c'è un po' il pericolo di rifugiarsi nell'ideologia o peggio nel cinismo, no? Per superare questi momenti di incertezza. Allora ecco che dunque forse misurarci un po' con i tempi lunghi, non per pura curiosità o per fare antiquariato, ma magari per sfruttare la capacità degli storici e delle ricerche che sono state fatte, di farci capire qualcosa di un po' di diverso, visto anche il taglio che è stato adottato, e porci nuove domande, può essere utile quello che cercheremo di fare con questo ciclo. E mi piace qui, rubo ancora un minuto Marco se mi consenti, citare una poesia che io avevo letto tanto tempo fa, ma che stamattina durante una seduta di laurea uno studente ha tirato fuori e l'aveva messa in conclusione della sua tesi di laurea. È una poesia di Valerio Magrelli, che dice questo, dice: il confine tra la mia vita e la morte altrui passa dal divanetto di fronte alla TV, Pio Litorale, dove si riceve il pane dell'orrore quotidiano. Davanti all'ingiustizia che sublime ci ha tratti in salvo per farci contemplare il naufragio da terra, essere giusti rappresenta appena la minima moneta di decenza da versare a noi stessi, mendicanti di senso e al Dio che impunemente ci ha fatto accomodare sulla riva dal lato giusto del televisore. Quindi, mendicanti di senso, per fortuna ci troviamo dal lato giusto del televisore, del monitor, del display del nostro smartphone, però può essere interessante chiedersi come mai siamo da quella parte, come ci siamo posizionati. Ecco, quindi in questo senso oggi ho il piacere di presentarvi Marco Bellabarba. Come si dice in queste occasioni, lo conosciamo, non è necessario insistere troppo sul suo curriculum, ma lo faccio lo stesso, due parole per dirvi che Marco è docente di storia moderna presso l'Università di Trento, ha studiato la storia dell'amministrazione della giustizia nell'Italia nella prima età moderna, con pubblicazioni importanti sulla giustizia del Principato Vescovile di Trento e poi successivamente sulla giustizia dell'Italia moderna. Poi si è occupato anche di storia dell'impero asburgico con un importante volume uscito, trovate qui come sempre ben preparati dalla Claudia Augusta, un libro intitolato L'impero asburgico, che è uscito per il Mulino nel 2014 e che successivamente è stato tradotto anche in lingua tedesca, insomma a dimostrazione del valore dell'opera. Tra le sue ultime fatiche poi c'è questa introduzione alla storia moderna uscita sempre per il Mulino nel 2018, curata da Marco insieme a Lavenia, e di cui è uscita recentemente una seconda edizione proprio quest'anno, insomma l'inchiostro è ancora fresco. Un libro molto interessante, perché non è il classico manuale, è un libro che contiene alcuni degli approcci che negli ultimi decenni sono stati quelli più innovativi, pensiamo alla storia globale, ma anche alla storia delle mentalità, per esempio, alla costruzione della mentalità degli uomini e delle donne del passato, che a volte, studi che a volte sono scaduti un po' nel vago e nel banale, ma non in questo caso, e che è capace di portarci anche un punto di vista diverso dal solito punto di vista eurocentrico, ma lo fa senza i toni iconoclastici militanti che a volte questo approccio ha e che spesso finisce poi per sminuire la portata, no, di questo punto di vista. Insomma, un libro che anche a uno storico dell'economia come me è piaciuto e molto, ma ve lo faccio raccontare ovviamente da chi lo ha curato. Grazie. Allora, eccoci qua. Credo che funzioni, sì. Grazie a Andrea della fin troppo ampia presentazione, sempre gentile e preciso come d'abitudine. Ringrazio la Claudia Augusta che ci ospita e naturalmente benvenuto a tutti. Vi do volti amici anche di studenti che sono passati per la nostra facoltà, il che mi fa naturalmente molto piacere. Le cose che ha detto Andrea, e giuro non ci siamo accordati in nulla, ovvero sulla ripetitività di certi temi, sulla su come la storia è raccontata nei media, è un tema che ovviamente interessa a tutti, perché interessa anche noi che dovremmo trasmettere nel modo sempre più persuasivo, suadente, insomma suggestivo, le nostre cose. Ecco, questi temi sono temi, diciamo, scottanti e anche molto attuali, e stanno un po' dietro anche a questa iniziativa, no? Riflettere sul modo con cui noi comunichiamo le nostre ricerche, su quello che un po' genericamente si chiama adesso l'uso pubblico della storia, no? E allora mi ero così trascritto e segnato alcune battute di un dialogo che due colleghi molto bravi, proprio a questo tema, al lato giusto della televisione, alla divulgazione e così via, avevano dedicato qualche anno fa. E volevo leggere alcune parti perché sono in sintonia molto interessante con quello che diceva Andrea. Ora, interrogato il collega sull'uso pubblico della storia, sui modi della divulgazione, diceva che la questione era importante, ed ovviamente, ma diceva anche, scriveva anche, è una questione che stava diventando imbarazzante. In questo senso, perché da un lato, scriveva, il consumo della storia impazza, no? La troviamo, non occorre fare nomi, la troviamo certamente molto presente, ed è vero anche che, dice, se accendi la televisione non trovi delle veline, delle storie fatte male, trovi sicuramente tanti documentari su Hitler, Stalin, il fascismo, che sono il mainstream in generale, trovi naturalmente qualche volta anche una puntata sui Templari, su Carlo Magno, perché il Medioevo, ecco, su Erasmo, su Voltaire, su quello che ci sta in mezzo già molto meno, ma non è questo forse il punto. Ecco, il punto del collega, che io mi sento peraltro di condividere, era che questa esposizione mediatica, diciamo così, non aiuta la storia, no? Nel senso che, scriveva, mi pare che ci sia una forte dose di abuso della storia, in parte per interessi politici, in parte per interessi commerciali, con delle sovrapposizioni fra i due, e il vero pericolo era quello della rievocazione storica un po' semplificante o semplicemente fatta male, no? Con le sue parole ancora, la premessa ispiratrice delle trasmissioni generalmente televisive è che un discorso culturale si diffonde solo dopo averlo ridotto in una polpetta informe e possibilmente anche un po' scandalistica, no? E il pettegolezzo sembra sovrapporsi, diremmo così, al ragionamento, all'insegnamento, no? E qual è la soluzione allora che veniva avanzata o proposta? Quella era di non ricorrere a tutti i costi la popolarità, né cercare di venire incontro all'abbassamento o al desiderio di ascoltare con impegno qualche discorso un po' complicato. Cautelativamente diceva, ma non si tratta di essere snobbisti o di non voler avere un pubblico ampio. Si tratta di non mettersi a giocare una partita, quella diremmo della popolarizzazione della storia, dell'abbassamento del livello sul quale, diciamo, gli storici perdono in partenza, cioè non è inutile mettersi a giocare quella partita lì, no? Quello che credo servirebbe, continuava, è scrivere dei libri nuovi di sintesi, di ricerca, rivolti al pubblico colto, non solo ai colleghi, un difetto che gli accademici hanno spesso. E non è questo semplicemente una questione di stile, ma è anche una questione di contenuti, nel senso che ogni argomento storico, anche il più arduo, anche il più lontano, anche i greci, anche i contadini del Tirolo medievale, oppure gli abitanti dell'impero ottomano e così via, ecco, tutti gli argomenti, anche i più difficili, possono essere affrontati come un aspetto della nostra vita e quindi come un contributo alla comprensione di queste. No? E questo si può fare senza, come dire, rinunciare a una certa densità di esposizione, a un'analisi interpretativa un po' complicata a volte, o comunque senza perdere di vista che è necessario che la nostra attitudine di ricerca trovi anche un modo semplice e possibilmente comprensibile rivolta agli altri, no? Quindi è questo un po' lo scopo che ci siamo proposti con l'altro collega quando abbiamo cominciato a pensare e a riflettere su come costruire questo testo. Allora, il primo punto era, il primo motivo, ritenere che lo studente universitario, perché questi manuali, come gli altri che verranno presentati, sono rivolti a degli studenti universitari, prendere seriamente l'ipotesi che uno studente possa essere sfidato, diciamo, intellettualmente a comprendere questo lavoro e che non sia disposto solo a ricevere delle informazioni, ma sia disposto a elaborare queste informazioni, a farsi un'opinione e così via. In secondo luogo, però, è anche la sfida era quella di costruire un libro, quindi un insieme in questo caso di saggi che fossero abbastanza accattivanti, un po' fuori dagli schemi, che non fossero il solito manuale sul quale tutti noi abbiamo studiato, cioè un testo che procede con un ordine cronologico tutto sommato molto tradizionale e che dà l'impressione di essere appunto un testo vero, no? Mentre ogni manuale, lo sappiamo, è un prodotto costruito, riflette le scelte di chi l'ha progettato, i gusti a partire dalla cronologia, dalla sistemazione degli eventi e così via. Quindi abbiamo creduto che un po' mettere da parte questa falsa impressione di oggettività che di solito i manuali danno fosse un contributo a rendere un pochino più accattivante e anche forse un po' più penetrante nei contenuti della nostra ricerca. Ecco, questo testo è fatto in un modo un po' bizzarro, non so se si può vedere, perché ha una parte diciamo così, di carattere più introduttivo, nel quale si trovano saggi che approfondiscono delle questioni e lo fanno in senso cronologico lungo. Il primo saggio è Il pensiero del passato e l'idea di moderno, il secondo è Per misurare il tempo, il terzo è Rivoluzioni ecologiche lunghe 3 secoli, poi ci sono saggi sulla cartografia, sulle reti commerciali, sul capitalismo, sul lavoro, schiavitù, migrazioni, tutti pensati sono nella nuova edizione, sono prima erano 16, adesso sono diventate 17, l'ultimo saggio è sulla comunicazione, la stampa e la scrittura, tutti pensati per l'appunto per prendere un argomento e svilupparlo con un taglio cronologico lungo, argomento che evidentemente ci sembra importante per capire i secoli della storia moderna, quelli che con una partizione, diciamo, accademica e anche liceale, scolastica in senso lato, che ci è stata in qualche modo imposta dalla tradizione e alla quale noi ci siamo adeguati, è quella, diciamo, fine 400, tardo 700, no? Poi c'è una seconda parte che invece che dialoga con la prima in maniera più tradizionale, perché la seconda parte, che si intitola I luoghi e le grandi cesure, parte da degli anni simbolo, no? E dai temi o da alcuni episodi che possiamo raccordare, perché poi c'è una sorta di combinazione interna attraverso un indice analitico che riporta dalle parti più tradizionali, diciamo così, quelle cronologiche, gli eventi, alla prima parte, in modo che i due segmenti del libro cerchino di dialogare tra loro. E poi c'è tutta una parte che sta su questo sito che si chiama Pandora Campus, che ogni acquirente del libro riceve come accesso, ed è una seconda parte che contiene strumenti, cioè cartografie, tavole dinastiche, cronologie, un lessico spiegato, una collezione di carte geografiche che evidentemente non potevamo mettere nel testo perché non ci sarebbe stato, sarebbe venuto già grosso, più grosso di quello che è attualmente. E dunque uno studente universitario, ci sono anche delle aree test, per esempio, uno studente può fare dei test, vedere se ha studiato, quanto ci mette, insomma, tutte quelle cose che un po' adesso la strumentazione della tecnologia ci dà a disposizione e che gli studenti sanno maneggiare certamente molto meglio di quanto lo possiamo fare noi. Quindi c'è una sezione appunto online che è un'espansione del manuale, che con una serie di manuali, di materiali che rendono più agevole la comprensione della prima e della seconda parte, e l'idea appunto che chi legge il testo può poi passare dai saggi, diremo, tematici, monografici della prima parte, alla seconda, cercando ovunque eventi o personaggi o particolari congiunture che gli interessano, ma cercando di fare, diciamo, la spola tra una parte e l'altra, approfondire concetti o grandi questioni e poi trovare episodi che sono riferiti a queste cose. Ed è una struttura che in effetti, quello che mi risulta, è abbastanza, diciamo, originale, o comunque non ha delle esemplificazioni o delle imitazioni di questo tipo. E devo dire che anche gli studenti sono interrogati su questo, sono stranamente, da quello che potevo immaginare io, sono molto più soddisfatti della prima parte, che è la più complicata, che non della seconda, che è quella che in qualche modo hanno già incontrato, no? E i difetti stanno secondo loro, perché sapete quando danno questa recensione, insomma, qualche impressione viene lasciata, e che è indice che secondo noi appunto la sfida è in qualche modo una sfida accettata e che gli studenti sono contenti di trovare temi che di solito sono sparsi oppure non ci sono, come appunto la storia del lavoro oppure delle migrazioni, della schiavitù oppure della stampa, della rivoluzione scientifica, no? Messi assieme e poi dalla lettura si dipanano, se vogliamo dire così, gli interessi che nella seconda parte sono rappresentati da congiunture particolari, fatti, oggettivi e così via. Ecco, questa è un po' l'intelaiatura del testo e volevo darvi però alcuni esempi, adesso cercando di non abusare troppo della vostra pazienza e del tempo, di come dentro il testo, nelle due parti e nell'espansione online, siamo venuti confrontandoci con il tema, diremmo così, un po' fondamentale di questo testo, cioè con la sua pretesa, con la sua aspirazione o la sua ambizione di essere un testo un po' diverso dagli altri, no? E cioè con la sfida, che è stata una sfida nostra, prima di tutto, di rendere la storia moderna qualcosa di meno, diciamo così, noioso o sonnacchioso del precedente, no? Ecco, voi sapete che la storia non è una disciplina che studia genericamente il passato, no? Ma è una disciplina che studia il passato che è in noi in qualche modo, no? E per questo la storia è anche una disciplina che cambia, ha uno statuto scientifico che è molto diverso al passare del tempo, come cercherò anche di dimostrare, forse perché noi, come aveva scritto una volta un grande storico che bolognese, ma che aveva vissuto tanti anni a Trento, abbiamo bisogno, noi occidentali, lui diceva, abbiamo bisogno della nostra identità collettiva, del nostro passato, forse per questo lui scriveva: il compito di ogni storico è quello di cercare di far emergere brandelli di quello che noi siamo ma che non siamo consapevoli di essere, no? Questi brandelli della nostra storia che rimangono un po' nascosti e che è compito dello storico tirare in superficie con un paziente lavoro di ricerca e di scoperta appunto della nostra storia collettiva. Solo che questa storia, come sappiamo tutti, è una storia che varia, no? Gli storici sono revisionisti per definizione, quindi al passare del tempo e al passare o al sopraggiungere di eventi di contemporaneità differente, chiaramente anche gli storici selezionano i loro interessi rispetto a quello che accade attorno a loro. Ecco, sappiamo, no, benissimo che la memoria, anche la nostra memoria, è una memoria di tipo selettivo, no? Quindi gli storici, come gli uomini che ricordano, sono, perché non si può ricordare tutto ovviamente, no? Sono portati a identificare alcune parti del nostro passato e cercare di gettare un ponte fra quello che, come diceva prima Andrea, la contemporaneità ci porta di fronte e il passato dentro il quale questa contemporaneità di fatto è stata costruita. Ecco perché i primi capitoli di questo volume sono dedicati a un argomento un po' bizzarro, se lo prendiamo da Chito, cioè il senso del tempo, come si misura il tempo. E ci sono due saggi, in particolare il primo e il secondo, che appunto cercano di capire come la sensibilità nei confronti del tempo è cambiata. Però c'è un saggio in particolare, quello dedicato alla storia, cioè al concetto di storia moderna, che ci spiega in maniera molto chiara qual è l'origine della storia moderna come l'abbiamo studiato, come ci sento. No? Voi sapete che il termine moderno, no, che deriva da un avverbio latino modus, che voleva dire recente, qualcosa nel tempo per l'appunto, ha assunto il significato di valutazione positiva che noi diamo al termine moderno per l'appunto, no? Perché Andrea Bonoldi è vestito alla moderna, c'è cioè una signorina, eccetera, eccetera. Questo è il moderno. Ora, senza ulteriormente dire scemenze di questo tipo, ma se noi prendiamo un testo che è di appunto, un documento che è assegnato nell'espansione online al primo capitolo, quello che ci spiega come nasce il concetto di storia moderna, incontriamo il più grande intellettuale europeo del XVIII secolo, cioè Voltaire, usare in questo senso la parola moderno, no? E lui ne faceva una sorta di, il testo è consultabile, si vede molto bene, lui ne faceva una sorta di raccomandazione ai suoi lettori e diceva: cari lettori, dovete studiare la storia moderna, quando essa diventa davvero interessante. E per Voltaire la storia moderna diventava interessante esattamente verso la fine del 400 e prima del 500, quando si verificavano, secondo Voltaire, e lo scriveva, dicendo che tutto quello che veniva prima non era molto interessante, e quindi i greci no, al Medioevo no, interessante, quindi diceva: giovani, studiate la storia quando l'Europa comincia a scoprire il mondo e lo conquista, quando, diceva, una frattura religiosa, cioè la riforma, separa la cristianità in due parti, quando le nazioni, gli stati europei cominciano a diventare degli organismi ben organizzati. Insomma, la storia moderna, la storia veramente interessante, era quella lì, quella che cominciava fra 4 e 500, che è la scansione canonica dei manuali di storia moderna che noi ancora consultiamo. E questa idea della storia moderna, come l'ha impostata Voltaire? In realtà è stata ed è continua per certi versi ad essere l'idea che noi abbiamo comunemente della storia moderna, cioè una storia che inizia per l'appunto grosso modo con l'umanesimo rinascimento italiano e che da lì prosegue una storia di linea continua verso una storia che gli succede, che gli è immediatamente collegata, che è la storia dell'Ottocento e la storia del Novecento, che è la storia nella quale per l'appunto tutto il pianeta è stato conquistato dall'Europa e gli europei ad un certo punto lo hanno perso, no? Negli anni 50 del secolo scorso, ma non prima di averlo trasformato irreversibilmente e di avergli dato a tutto il mondo, no? Le caratteristiche che sono proprie della cultura, della società, dell'economia europea, e quindi innanzitutto il capitalismo, cioè un'economia di questo capitalista che secondo gli storici più tradizionali nasceva proprio nelle città europee tra 4 e il 500, e poi gli stati nazionali naturalmente, no? Che più tardi, fra 8 e 900, si allargheranno a tutto il mondo, e quindi però anche cose più più rilevanti dal punto di vista intellettuale, come appunto la cultura illuministica, l'idea di nazione, poi meno encomiabili il razzismo, il fascismo, eccetera, eccetera. No? Ecco, però l'idea che Voltaire in qualche modo in luce presenta e che noi abbiamo raccolto, no? Io penso ai manuali sui quali abbiamo studiato al liceo, non erano poi così troppo distanti da questa idea, era che vi fossero dei caratteri europei potenti, a volte anche contraddittori, a volte non perfettamente encomiabili, ma che avevano costruito una storia che dall'Europa era partita e si era allargata e in qualche modo aveva, diciamo, positivamente contaminato le altre storie, no? Allora, l'idea che la storia moderna sia una specie di processo unilineare che procede in senso teleologico verso un progresso continuo, no? I contemporanei di Voltaire sono quelli che per la prima volta cominciano a immaginare il tempo e poi graficamente lo disegnano così, come una linea con una freccia che procede sempre, no? Perché il tempo illuminista è il tempo del progresso che non contiene e non ha limiti e confini nella sua espansione, no? Ecco, l'idea che questa sia, diciamo, la traiettoria della storia moderna, dicevo, è un'idea che è durata a lungo, questo cioè che vi sia un processo appunto unilineare, rettilineo, no? E dal quale bene o male tutte le altre storie sono rimaste toccate e trasformate, no? Ecco, è questa idea che un po' i saggi di queste introduzioni cercano di decostruire o di come dire, di guardare da prospettive differenti, no? E allora, innanzitutto, in questi saggi troveremo spiegata, io credo, spero spiegata bene, un punto importante, che è quello che noi dobbiamo rifiutare quest'idea esattamente di un cambiamento lineare nel corso della storia europea, un cambiamento, un tempo lunghissimo durante il quale l'Europa ha progressivamente affermato una crescita di carattere economico e politico che ha toccato tutto il mondo e lo ha trasformato. È molto più interessante, molto più proficuo pensare invece questi secoli nei termini di congiunture una diversa dall'altra, dei periodi di tempo molto differenti, che hanno certamente a volte allargato le caratteristiche della storia europea, ma a volte l'hanno anche trattenuta e soprattutto l'hanno messa in contatto con le altre civiltà e con gli altri mondi non europei, perché il secondo punto, il secondo assunto che secondo me noi dobbiamo sempre tenere d'occhio è che l'Europa è, anche l'Europa dell'età moderna, è in quanto tale un continente che sta in mezzo a una rete di connessioni con civiltà, soprattutto orientali in questo momento, no? Quindi l'impero ottomano, l'impero russo, l'impero cinese, l'impero giapponese, l'India, e quindi dobbiamo sempre cercare di trovare le connessioni che la storia europea stabilisce con le altre storie con le quali entra in contatto. Per resto, se noi guardassimo la contemporaneità, quello alla storia dei nostri tempi, e ci soffermassimo a guardare come velocemente negli ultimi decenni la storia europea e, diciamo, tutte le caratteristiche europee sono andate a sbattere contro un cambiamento di equilibri, di ricchezza, di potere politico che vede l'Asia adesso in qualche modo, non dico superare l'Occidente, ma certamente essere quantomeno sullo stesso piano. Ecco, vedremo con questa e riflettiamo con quanta velocità questo è accaduto sotto i nostri occhi, in maniera impensabile. Ecco, tutto questo ci porta a riflettere su quanto questa velocità di cambiamenti, di spostamenti, di equilibri, sia davvero impensabile collocandolo solo in questo brevissimo periodo di tempo. E invece è utile pensarla con una storia molto, molto più lunga, molto più agganciata al passato, un passato che i manuali di storia tradizionali, che erano fortemente e anche logicamente, voglio dire, eurocentrici, questa storia non affatto consideravano. Tre esempi davvero velocissimi per darvi un'idea del modo con il quale questi temi e queste connessioni della storia europea con le altre storie sono rappresentate. Ci sono dei saggi, secondo me, molto belli, per esempio sulla città, no? Luciano Pezzolo, che è uno storico economico, quindi un collega di Andrea, ci guida a comprendere un tema, diremmo, di una certa attualità, la storia di come le città europee e non europee si sono evolute, trasformate. Ecco, dice in questo saggio, scrive in questo saggio, che ovviamente è impossibile negare le differenze fra il fenomeno cittadino europeo e quello orientale, per esempio, no? Ad esempio, se noi guardiamo a come le città europee sono, dice, tradizionalmente collocate lungo le coste o i corsi d'acqua, e cosa che naturalmente facilitava un accesso al mare, quindi un collegamento più veloce, più agevole, facile con i trasporti. Tutte le grandi città orientali, con due eccezioni sostanzialmente, Costantinopoli e il Cairo, ma tutte le altre città orientali, la gran parte dei centri maggiori, sono invece alla confluenza di grandi rotte carovaniere di terra. E questo fu quando all'inizio del Cinquecento, no, la riorganizzazione degli scambi commerciali divenne importante. Questo fu un elemento di vantaggio straordinario per le città europee, quindi per l'economia rispetto alle economie orientali. E poi c'è un'altra fisionomia interessante delle città occidentali e orientali che li diversifica. Questo non significa che in qualche modo si creino degli squilibri economici già consolidati in questa fase. Però è interessante osservare che il contesto di urbanizzazione dei mondi orientali e occidentali è molto diverso. Scrive che nell'area appunto occidentale le città svolgono anzitutto un ruolo di protezione dei propri abitanti nei confronti di pericoli esterni, ovvero l'Europa medievale e moderna è un continente attraversato da una straordinaria intensità e frequenza di conflitti, no? L'Europa dell'età moderna, come sapete, è nata quando l'impero medievale si è frantumato e quindi è nata all'insegna del disordine, dei conflitti, e sempre Prodi diceva che non c'è altra civiltà come quella occidentale rivoluzionaria, nel senso che continua intensamente a cambiare. Mentre invece l'area, per esempio, cinese, che è questo enorme, impressionante e molto ben organizzato sistema statale con un potere centrale molto forte, ha permesso a queste città di essere dei luoghi certamente di amministrazione, di governo, ma inserite in un contesto appunto di un forte potere centrale, queste città sono, diciamo, sono cresciute sostanzialmente senza sentire una differenza tra l'essere cittadino e l'essere abitante nei luoghi lontani, cioè nelle campagne. Cioè questo ha impedito di nascere, di far nascere quella differenza così profonda, ma anche tipica dell'ambiente europeo, una differenza che a un certo punto diventa una differenza di dinamismo tra la città e la campagna, no? Quindi riflettere sul fatto che le città, che sono le più grandi città del mondo, no? Pechino, Kyoto, sono città profondamente diverse perché il loro inserimento in un contesto politico e territoriale è diverso. Questo ci invita appunto a non appiattire tutto, ma certamente a considerare invece le differenze. Sembrerebbe controintuitivo dire, no, un continente incasinato, scusate così, come l'Europa, rispetto a questa grande pacifica struttura molto ben organizzata come appunto l'impero cinese, sia stato quello in grado nel lungo periodo di affermarsi, eppure è così. Senza dimenticare naturalmente, adesso non certo magari Andrea mi correggerà, ma c'è un altro saggio e non dobbiamo mai dimenticare che rispetto a quest'idea un po' fantasiosa dell'Europa come il motore dell'economia, già nel tardo 400 o primi 500, no? Il luogo in cui nasce il capitalismo e quindi diventa il luogo più evoluto economicamente ricco, ecco, non dobbiamo dimenticare che fino al 1750, scrive Andrea Caracausi in questo saggio, in Europa si produce il 23,2% della produzione manifatturiera mondiale, mentre Cina e India nel 1750 coprono il 57,3% del prodotto, diciamo, mondiale, no? E sono paesi tecnologicamente più avanzati, più produttivi e anche più ricchi degli europei. Dunque questo ci fa appunto un'altra volta riflettere sul fatto che ci sono già allora dei circuiti economici differenti, che non c'è quella che una volta gli storici economici chiamavano un'economia mondo europea occidentale e le periferie. Ci sono dei sistemi che già in questo momento hanno dinamiche diverse. Questo ci dice anche che l'Oriente, che ricordo dalle mie prime letture, veniva dipinto come la società fredda, no? Cioè statica, in confronto alle società occidentali che erano società invece calde, in continuo movimento. Tutta questa idea che quel mondo là fosse per tutta l'età moderna un luogo immobile, statico, è esattamente il contrario di quello che in realtà accade. Certo, poi arrivano le occupazioni coloniali inglesi, arriva l'Ottocento, arriva la rivoluzione industriale, tutto questo cambia, però, come dire, è questo un segno di quanto già allora i rapporti fossero mobili e i cambiamenti fossero soggetti a intensità e a frequenza che noi non immaginiamo. Ma per andare più velocemente, ecco, direi che anche quando noi consideriamo, per esempio, come fanno i manuali, no? L'espansione, la conquista dell'America, il vero inizio della storia europea e anche il vero inizio dell'espansione della crescita europea, dobbiamo considerare che, senza nulla togliere l'importanza di questo evento, in realtà la scoperta americana non fu altro che un episodio, e all'inizio neppure troppo significativo, della trasformazione di alcuni equilibri che già però precedentemente sussistevano. L'Europa non aveva atteso la traversata oceanica per avere dei contatti intensi, economici, culturali con il mondo orientale, come tutti sappiamo. E quindi anche in questo caso, se vogliamo mettere da parte questa ipotesi un po' appunto finalistica, teleologica della storia europea, dobbiamo, come ha detto uno storico indiano, muoverci lateralmente, cioè sempre guardare a come i legami e le connessioni sono importanti per comprendere ciò che accade. In fin dei conti, se, come diciamo in un certo punto del saggio, se qualche abitante del mondo allora avesse voluto scommettere a quale impero, quale stato ancora alla metà del 600 avrebbe vinto la guerra o la competizione mondiale, no? Una specie di gioco di risico spostato al tempo, ecco, nessuno avrebbe scommesso sull'Europa. Tutti avrebbero detto che la grande potenza politica, diplomatica e militare del mondo non era certamente l'impero spagnolo, era l'impero ottomano, che aveva conosciuto dal tardo medioevo fino agli inizi del 500 una espansione straordinaria sia in Europa sia naturalmente a partire dagli inizi del 500 in Africa, nel Medio Oriente e così via. E questa constatazione ci porta di fronte anche ad un'altra idea tradizionale che dobbiamo un po' smentire o cercare di mettere da parte, poi sull'impero ottomano e su quello che ha di ritorno. Però la vecchia storiografia, quella diciamo, tradizionale fino a fino a non molti anni fa, che considerava l'Europa del capitalismo da una parte e l'Europa degli stati che stavano nascendo, no? Degli stati cosiddetti stati proto-nazionali, no? Le monarchie, l'Europa, dove nasce la monarchia spagnola, la Francia come regno nazionale, cioè l'idea che il fattore vincente della politica europea e quindi la sua ricetta, diciamo così, di espansione, gli ingredienti della sua forza politica fossero nel fatto che già nel 400-500 nascevano degli stati cosiddetti proto-nazionali, che erano molto più vincenti, molto meglio organizzati degli imperi orientali, che invece erano una specie di landa addormentata. Ecco, tutte queste idee chiaramente, non si capisce, ha una tradizione, un presupposto di carattere, diremmo, risorgimentale o italiano, no? Almeno nel caso italiano, no? Quando cioè si guardava all'Italia del 4, 5, 6, 700 come una specie di laboratorio in preparazione della futura unità italiana, no? È interessante osservare il fatto che l'Italia di questi stati piccolini è tutta fuorché un insieme di stati tra virgolette italiani, no? La Repubblica di Venezia è uno stato italiano? No, è un piccolo impero marittimo che tiene molto più alla sua parte di mare in Dalmazia, in Grecia, eccetera, di quanto non tenga i domini italiani. La Savoia, no? Il regno che poi unirà l'Italia, è uno stato italiano? No, è uno stato che sta a cavallo tra la Francia e l'Italia. E il regno di Napoli, è uno stato italiano? Evidentemente no, è un dominio spagnolo e, per quanto bizzarra ci possa sembrare la cosa, nel regno di Napoli e nel regno di Sicilia e la Sardegna vivono più, tra virgolette, sudditi spagnoli di quelli che abitano nella Spagna. Cioè, quindi, il regno di Napoli è la vera Spagna, sostanzialmente. No, questo per dire che anche l'idea, appunto, che, a cui noi siamo molto affezionati, che la politica della prima età moderna sia una politica di stati nazionali che si stanno costruendo, è smentita un po' da queste osservazioni, un po' invece dal fatto anche che tutti gli stati europei, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, sono non degli stati nazionali, sono degli imperi, alcuni più forti, altri meno forti, che guardano ad una grande competizione con altri imperi, che non è detto fra 500-600 che sia assolutamente vincente. No? Altra osservazione abbastanza interessante, potremmo... tornando all'impero ottomano, fino al 1500 l'impero ottomano ha più cristiani che non sudditi islamici, no? All'interno. Perché? Perché occupa tutti i Balcani, tutta l'Ungheria, gran parte dell'Ungheria, tutta la Serbia, buona parte della Croazia, la Romania, eccetera, eccetera, no? E quando diventa l'impero ottomano un impero islamico, tutti gli effetti? Nel 1517. Quando Selim, detto Selim il crudele, questo grande sultano, detto il crudele perché, come si usa allora, ha ucciso tutti i suoi fratelli possibili concorrenti al trono, occupa il Cairo e da lì più avanti si espanderà in tutta l'Africa settentrionale. E il 1517 per gli europei di allora non è l'anno nel quale Lutero affigge le tesi di Wittenberg. Sì, è un evento di cui nessuno si cura all'inizio, meno che vedo i papi di Roma che proprio non sanno cosa sta capitando in questa cittadina remota della Germania, insomma, del Principato di Sassonia, e non sanno cosa fa questo monaco rompiscatole. Ma il vero evento della storia europea è il 1517, subspecie di occupazione ottomana dell'impero dei mamelucchi egiziani, cioè l'arrivo in tutta la sua forza dell'impero ottomano, che ha preso tutta l'Anatolia, è disceso per il Medio Oriente, ha occupato l'Arabia Saudita, l'Egitto, e poi da lì andrà avanti verso per arrivare fino quasi al Marocco, no? E se noi ci riflettiamo appunto alla, di nuovo alla data della, come dire, dell'espansione americana, e se mettiamo tutto questo evento che una volta veniva appunto descritto come, lo, come dire, la messa in pratica dello spirito avventuroso e della tecnologia marittima degli europei che si inoltra nell'Oceano Atlantico quando gli ottomani e le altre città e le altre potenze del mondo non lo fanno, ecco, ci rendiamo facilmente conto che la conquista americana è in realtà una via d'uscita che gli europei devono cercare in quel momento per, diciamo, riuscire a beccare quei traffici commerciali di spezie e di quant'altro che una volta che l'impero ottomano si è esteso al Mar Rosso, al Golfo Persico, blocca inevitabilmente il passaggio, no? Quindi anche in questo caso, se cerchiamo le interrelazioni dinamiche, le connessioni tra gli eventi, vediamo che la storia europea non può stare e non è comprensibile senza questa continua, appunto, trasposizione degli eventi, di ciò che accade, verso altri orizzonti. E se poi vogliamo anche cogliere un'altra connessione in quei momenti lì, nel momento in cui l'Europa appunto diventa col Portogallo e con la Spagna un grande impero, o l'inizio dei grandi imperi coloniali, dobbiamo renderci conto, per esempio, che esattamente in quegli anni si sta formando un altro grande impero che noi tradizionalmente mettiamo ai margini della nostra storia europea e che invece è profondamente correlato alla storia europea, che è l'impero russo. Sono quelli gli anni nei quali un po' alla volta il Principato di Moscovia conquista quelli che sono i vecchi canati dell'impero Gengis Khan e scende giù lungo il corso del Volga verso il Mar Nero e nel 1547 per la prima volta appunto Ivan IV il Terribile si proclama zar, cioè imperatore, ed ecco che allora la storia europea se la vediamo in questo primo scorcio di XVI secolo è composta certo dalla spinta di prima portoghesi, poi spagnoli verso, e poi inglesi e francesi verso le colonie americane, però anche dalla grande costruzione dell'impero islamico ottomano. Sono questi gli anni poi nei quali si forma anche il grande impero indiano Mughal, che è un grande impero musulmano in questo caso, e poi la Russia, no? Un impero in fiere, in divenire, che bussa le porte dell'Europa, ma che fa già parte della storia europea. Mi fermo in questo momento solo per dire che appunto lo sforzo che abbiamo fatto in questo manuale è quello di appunto di creare delle storie connesse, di non fermarci alla storia unicamente europea, di non prendere nemmeno troppo sul serio la parola globalizzazione, che è una, secondo me, una parola un po' insulsa e non troppo piacevole da ascoltare, come se la globalizzazione fosse un fenomeno novecentesco. In realtà la storia globale, come si dimostra, è una storia lontanissima, lunghissima, a fasi differenti, svolte cronologiche precise, e noi questo abbiamo cercato di ricostruire, perché abbiamo pensato che connettere queste storie serva a rendere maggiormente comprensibile il nostro passato, no? Adesso certo siamo immersi in una dimensione globale, planetaria, nel quale gli spostamenti incessanti della popolazione ci fanno immaginare appunto di essere improvvisamente piombati in una grande ragnatela di movimenti, di relazioni. In realtà la storia precedente è esattamente modulata da questo continuo fenomeno di relazioni, di connessioni, di trasformazioni. E se volessi proprio usare una metafora che ho trovato intelligente e acuta di uno storico che studia queste cose, userei, prendendogli un po', rubando le sue parole, la metafora dello storico come un elettricista, no? L'elettricista cosa fa? Quando si rompono i contatti lui cerca di riaggiustarli. Ecco, lo storico fa esattamente questo, secondo questo studioso. Mette a punto i contatti, no? Li ricostruisce e cerca di vedere da che parte finiscono, cioè dove finiscono, dove iniziano e se c'è bisogno di ripararle ci mette mano. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione e sono qua. Grazie mille, grazie Marco per questa densa presentazione che insomma ci ha fatto vedere qua come diversa possa essere, no? Una lettura della storia contemporanea diversa. Io penso al mio manuale di liceo, no? Sempre questa cosa, mi ricordo le interrogazioni, le cose, e invece raccontata così insomma c'è anche prospettive di tutt'altro genere. Io direi che possiamo approfittare della presenza di Marco Bellabarba qui, ancora magari prendo qualche minuto per vedere se ci sono domande o curiosità da parte vostra, da parte del gruppo. Signora, prego. Io ho una curiosità, ma veramente sì, molto di base. A me la storia piace molto, mi interessa molto, leggo, ascolto. Mi sono chiesta tante volte, ma le fonti, il problema delle fonti, quando mi raccontano che dopo la caduta dell'impero, ma dico, chi te l'ha detto in definitiva? Cioè, dove, di chi ti fidi? Questo per la storia passata che ormai penso non può avere altre testimonianze che quelle degli storici che allora con motivazioni che non possiamo sapere esattamente ci hanno tramandato. Oggi peggio, la confusione è immane ai miei occhi, cioè io non capisco nulla di ciò che sta succedendo, la cosa un po' mi amareggia, mi anche spaventa moltissimo. Chiedo quindi uno storico come riesca a mantenere il sangue freddo e lo spirito critico attento per scremare fra questi mille input che arrivano, quelli che sono effettivamente, che raccolgono effettivamente un'eredità del passato e si possono proporre come fondamenti per il futuro. Ecco, questo delle fonti vorrei sapere come viene trattato, vissuto dallo storico. Direi, allora sono contento che debba rispondere Marco a questa domanda, che è una domanda, guardi, veramente importante, sulla quale anche tra di noi si dibatte molto. Insomma, tanto per dar la parola a qualcun altro, in un vecchio libretto di tanti anni fa, di uno storico inglese che come tutti gli storici inglesi aveva un po' il gusto naturalmente della facezia, dell'ironia, lui diceva, le fonti sono come i bambini ben educati, rispondono solo se interrogati. Allora, la questione dello storico, specie quando ci si trova di fronte, per fortuna non facciamo gli storici, io non faccio lo storico contemporaneo, quindi non ho di fronte a me, come lei diceva, questa mole spaventosa di documentazione, però anche nell'età moderna come dire, le fonti sono numerosissime, a volte anche spaventosamente numerose. E certo ci si pone di fronte ad una ricerca che parte diciamo, per cerchi concentrici, no? Quindi come lei diceva, per episodi particolarmente importanti noi dobbiamo sempre fare i conti con una precedente lettura di storici che ci hanno preceduti e l'abilità in questo caso sta sempre nel capire come certi libri nascono in un contesto particolare che ha indirizzato quindi anche le letture degli storici verso particolari interpretazioni, quindi la storia, cioè il passato si sedimenta come lei sa con una specie di un processo geologico, no? Ci sono strati successivi che si sovrappongono e quindi dare certamente come occorre, no? Dare per assodato che la massa di fonti, soprattutto edite, che qualsiasi storico all'inizio consulta per muoversi un po' così attorno all'oggetto al quale dedica la sua attenzione, è un primo passo che già però presuppone, no? un'attenzione critica nei confronti dei testi, no? Se noi prendessimo, come prima faceva riferimento Andrea, qualsiasi storia d'Italia ottocentesca, novecentesca, beh, ci troveremmo di fronte a una storia che, per esempio, già all'inizio del Settecento mette i Savoia come una dinastia italianissima, naturalmente, che pensa a costruire il futuro Stato nazionale, no? Questo fa parte della, come dire, dei ferri del mestiere, no? Individuare e contestualizzare un testo nell'epoca in cui è stato prodotto, e questo serve naturalmente, perché non se ne può fare, non se ne può fare meno. Ecco, lo stesso processo selettivo si ha quando, cosa che capita, devo dire, sempre più raramente, soprattutto nelle generazioni più giovani, quando si entra negli archivi, no? Quando cioè si ha questo contatto diretto con le fonti, che ovviamente crescono esponenzialmente dal Medioevo all'età moderna, e lì, anche lì si tratta, in questo caso, di avere, diciamo, delle cautele, degli strumenti, anche di conoscenza, insomma, paleografica, diplomatistica, insomma, quella che una volta si chiamava l'erudizione, no? Che è un elemento fondamentale della storia, diciamo, di come si fa la storia, no? E quindi, ma anche in questo caso, certamente lei diceva, la sensazione di spaesamento che si può avere entrando in un grande archivio quando si cerca qualcosa, è la sensazione che tutti noi proviamo, no? Perché quando si entra in un grande archivio come Venezia, faccio per dire, no? Noi siamo fortunati perché, lavorando su fonti, diciamo, di piccoli stati come il Principato Ecclesiastico di Trento, la Contea Tirolese, sì, sono grandi cose, ma quando va a Venezia trovi questi chilometri e chilometri di scaffali pieni di documenti, e beh, lì la cosa è più complicata, è la sensazione a volte di impotenza, o comunque un po' di scoramento è naturalmente. E poi certamente, insomma, non si può avere la pretesa di vedere tutto, quello no, assolutamente no. Occorre circoscrivere certe fonti, essere onestamente in grado di confessare che il lavoro sarà sempre un lavoro in qualche modo manchevole, alcune fonti non potranno essere viste, altre fonti spunteranno prima o poi, però questo fa parte, diciamo, del modo col quale gli storici hanno sempre lavorato, e anche la consapevolezza che, appunto, qualcuno dopo di noi, perché sarà cambiato il clima, perché sarà cambiato, le storie cambieranno. Naturalmente ogni epoca indirizza i suoi interessi verso le fonti che gli paiono quelle più importanti, no? La storia ottocentesca, politica ottocentesca, si fa sostanzialmente sui documenti diplomatici, pensando che i documenti diplomatici, di cui tutti gli stati europei hanno delle collezioni, hanno in sé, in loro, una sorta di verità inconfutabile, perché sono, come dire, sono documenti prodotti da apparati dello Stato. Poi, chiaramente, letta oggi, una storia politica fatta solo sui documenti diplomatici puzza lontano un miglio di condizionamenti, di visioni interessate, quindi è una storia, e poi è una storia assolutamente circoscritta, no? Come se, appunto, la vita degli uomini del 800-900 fosse stata una vita solo iscatolata in quei documenti. Dopodiché, appunto, le generazioni di storici successivi hanno cominciato a studiare mille altre cose che uno storico 800-900 non riteneva importanti, no? Quindi i documenti privati, gli archivi degli istituti ospedalieri per vedere le condizioni di vita, insomma, ci sono un sacco di strade aperte, e ogni generazione apre nuove strade in questo senso, quindi siamo sempre pronti a riconoscere sia le nostre manchevolezze sia la provvisorietà dei nostri lavori, no? Il che mi pare anche una buona accettazione della realtà, insomma, e una ammissione di come stanno le cose. Assolutamente, assolutamente. Certo. La nazionalità di Wittenberg, Wittenberg, sì. Dove ha studiato Lutero? Sì, sì, sì, sì. Perché mi pare? No, non so se ha studiato a Wittenberg, però era. Ci stava. Ci stava. Bene, sì, sì. Dunque, no, perché nell'Amleto di Shakespeare parla di Amleto che se n'è andato, poi torna mentre hanno ucciso il padre. E lui era andato a studiare a Wittenberg, è sempre la stessa città. Interessante, vedi. Questo non lo sapevo. Se lo guardi, perché pare che sia stato a Wittenberg, c'è cioè questo richiamo in quel periodo assolutamente di guerra e di religione, sì, sì, sì, che sì. È stato nel 600. A me mi pare di aver letto Wittenberg. Allora andremo a rileggere, andremo a riguardarlo. Uno proprio dei tanti incroci shakespeariani interessanti, no? Cado in dalle nuvole. Cado dalle nuvole, vuol dire, ammetto le mie. Una prima mi pare non è Pasquale, perché lui c'è anche un parente che era senatore, Villari, 1866, sì. Che è qua delle battaglie nel Trentino, no? E, ci sono stati nel 1866, sì, sì. E lui è partito da Messina, poi è morto durante l'assedio, durante il terremoto di Messina, anche se è stato momentaneamente salvato da una nave russa. Che arriva fin qua, poi torna senza aver sparato, e lì c'è tutto, tutto il racconto di questo qua. Qua a Bolzano è anche seguito Raffaello Sennesi, il pittore, no? Ecco, che c'è in due versioni, una prima del 1866, che è tutto Dio, tutto in luce, eccetera, e poi c'è una seconda che è stata usata anche in prima guerra mondiale. Invece che tutta senza Dio, tutta atea, tutto l'uomo, eccetera, così. Nel mezzo c'era stato il Papa che aveva buttato gli italiani, insomma, praticamente, no? C'era stata questa guerra. Prima, la prima versione è grossa, anche per motivi editoriali. Non parla di questo problema, poi ci sono state anche altre cose, se si può sparare qualcuno che mi pare ci sia la stessa cosa anche nel Gattopardo, si può sparare qualcuno che non è andato a sparare anche se è una partecipazione volontaria, eccetera. C'è questa cosa qua, ma in altri testi che ho trovato qua, no? Su quelli che hanno ammazzato per gli obiettori di coscienza, no? Ecco, c'è questa differenza tra queste due versioni. Comunque si chiama 1876 di un certo Villari. Mi pare che la prima versione l'ho trovata solamente nella libreria del congresso, che è online, mi pare che l'ho trovata online. 1866, mentre la seconda è da Tesma, qua alla biblioteca. E quella me la volevo prestare anche a casa, avevo paura. Allora, sono queste due questioni. Allora, Wittenberg, se andremo a vedere. Se c'è questo accenno nell'Amleto, e la seconda, questa differenza tra questi due testi che purtroppo non sono stati pubblicati nella loro interezza, perché qua c'è una copia, però è stata tagliata da Ragazzoni, quello che era edita, che è un po', che era un po', ci non aveva senso. Sì, un po' molto, sì. Ecco, sì. Però quella intera io l'ho vista online, e quella seconda invece da Tesma. Spero di non essere sbagliata. Controlleremo. Sì, sì, non conoscevo questo tema, interessante. Sì. Grazie, grazie. Grazie mille. Ci sono altre domande? Sì. Professore, l'eletricista deve stare attento a essere isolato, perché se i fili sono sotto tensione, o fare la scossa e provoca un cortocircuito, e lì le polemiche poi riducono. No, io prendo spunto da signora che faceva accenno a non accapezzarsi in questo frangente. Allora, noi parliamo di una storia distante nel tempo, dove il tempo ha condizionato anche la conoscenza. Oggi i tempi sono altri. Allora, se il secolo scorso è stato breve, probabilmente questo è brevissimo, spero non cortissimo. perché gli avvenimenti sono così tempestivi, hanno subito delle ricadute, dove è difficile effettivamente raccapezzarsi, perché avvengono tanti fenomeni e non tutti sono osservabili con la necessaria calma e la capacità di discernimento. Questo è la mia. Faccio un banale esempio. La crisi del 29 ha avuto delle ripercussioni in Europa, ma ci è voluto un po' di tempo. La crisi del 2008 e questa di questi giorni delle banche ha avuto delle ripercussioni immediate. Il galleone spagnolo che rapinava di olio le cose di valore per portarle in Spagna impiegava delle settimane. Oggi in pochi secondi si trasferiscono in immense verità. Cioè, questo dà la dimensione che il tempo di una volta consentiva determinate cose. I tempi di oggi possono essere velocissimi, ma dove è difficile riconoscersi e raccapezzarsi. Grazie. Posso fare una cosa? Sì, lasciamo rispondere Marco. Sì, beh, in realtà non è che cioè, la risposta al quesito è vero, cioè sono d'accordissimo sul fatto che la velocità degli avvenimenti, dei tempi sia assolutamente incomparabile, no? Però non credo che e poi certamente, come lei diceva, in un mondo nel quale oggi, no, il famoso battito della farfalla eccetera eccetera, no? Va bene, questo fa parte di un'evoluzione nella quale noi viviamo, dei mezzi di comunicazione, dei tipi di collegamenti che ci sono, della velocità e così via. Io penso che gli storici del futuro sapranno adeguarsi a questo tipo di così, insomma, di temporalità compressa che lei sta, o di temporalità super accelerata di cui stiamo parlando, e avranno gli strumenti per intenderli, per capire. Cioè, io non vedo che, cioè, se è quello che lei stava cercando di dire, ecco, non vedo aprire per gli storici che verranno dopo di noi uno scenario di maggiore difficoltà a comprendere gli avvenimenti, no? Certamente gli strumenti saranno differenti, le percezioni o i modi con i quali si costruiscono saranno ovviamente adeguati alla tecnologia, però noi guardiamo, diciamo, o possiamo studiare i fenomeni di circolazione delle informazioni 500-600, nell'800 con l'introduzione del telegrafo, dei cavi sottomarini e così via, con gli strumenti che evidentemente tengono conto delle diversità dei contesti, ma che poi dal punto di vista, diciamo così, metodologico non sono poi, secondo me, così fortemente diversi, no? Non penso di essere troppo ottimista nel pensare che la capacità di conoscere il passato sia ad un certo punto più difficile che in altro. No, probabilmente invece sarà molto più facile. Certo, il problema sarà che rispetto a un contesto, diciamo, di età moderna, le informazioni sono minori e più difficilmente raggiungibili. Per mano a mano ci avviciniamo al nostro periodo, anche senza entrare, diciamo, nel XXI secolo, il problema dello storico è quello di discernere fra una quantità di informazioni ridondante, enorme, però allo stesso tempo sono anche, diciamo così, sono trasformati anche gli strumenti di cui la ricerca può disporre, no? Pensi a come è più facile adesso banalmente andare in un archivio rispetto a 20 anni fa, quando noi tutti, Andrea lo ricorda, dovevamo andare in un archivio, carta e penna e via. No? Trascrivere, ora abbiamo gli strumenti che ci offrono delle tecnologie, quindi possiamo fotografare le immagini, possiamo adesso con gli strumenti di cui dispongono certi istituti particolarmente all'avanguardia, possiamo passare, scansionare prima i documenti, poi trasformarli con degli OCR, quindi renderli visibili, interpretabili. Quindi cioè, c'è stato certamente un aumento, e più si va avanti, c'è un aumento della quantità, diremo, di materiale a disposizione della ricerca. Però sono contemporaneamente anche cresciuti le possibilità che la tecnologia ci dà nella, appunto, nella analizzare questi strumenti. Quindi non sarei così pessimista e non penso che la crisi del 29 possa essere più facilmente analizzabile della crisi del 2008, probabilmente il contrario, perché le quantità di informazioni che possediamo per capire da dove è nata la crisi dei mutui subprime nel 2008 ai ricercatori di storia economica rende molto più facile, io penso, il processo analitico, la decifrazione di quello che è accaduto rispetto a quello che gli storici del 1940-45 avevano a disposizione per capire la crisi del 29. Magari mi sbaglio, però insomma sarei più ottimista con i confronti delle possibilità della ricerca in futuro, se è quello che lei voleva. In parte prendo spunto dalla difficoltà di apprezzarsi da parte della signora, questo intendevo dire. Sì. Barra capezzarsi di fronte a che cosa? Perché diceva che è difficile comprendere tutto quello che viene detto perché viene anche contraddetto. Ma non penso che sia molto diverso da quello che poteva essere 100-200 anni fa, insomma. Non c'era un pensiero unico nemmeno allora, cioè i contrasti, le diversità di opinioni erano... Naturalmente c'era una soglia di accesso a queste fonti perché la popolazione, facciamo il caso occidentale, naturalmente accedeva a un certo tipo di fonti con maggiore difficoltà, c'erano un tasso di alfabetizzazione molto più basso, però io credo che la difficoltà o il senso di disordine, di confusione che noi proviamo è una tipica reazione di qualsiasi, di chi vive dentro gli avvenimenti, no? Di chi gli partecipa. Poi occorre... E il mestiere dello storico, soprattutto, io credo che consista soprattutto nel leggere la quotidianità, ciò che ci accade, senza aver la pretesa di capire, naturalmente, perché nessuno capisce tutto all'istante, no? Però di provare a vedere quello che accade attorno a noi senza l'impulsività di prendere parte, no? E quindi disporre, perché abbiamo studiato qualcosa, perché ci ricordiamo che appunto la crisi del 2008, prima di questa c'erano state anche altre crisi economiche impattate, e quindi è più facile, diciamo così, avvicinarsi agli eventi, studiarli con una certa maggiore... o con una certa minore superficialità di quelli che invece interpretano le cose soprattutto per prendere parte da una parte, o un fronte dall'altro. Io credo che l'urgenza che noi abbiamo, ne parlava prima Andrea, no? Di non essere travolti da questa continua ondata di informazioni che strumentalmente si contraddicono per ragioni, vabbè, la politica è questo, no? Prendiamo posizioni, eccetera, eccetera. Invece guardarle con, insomma, con una certa distanza, o provare a guardarle con distacco, a capire che se appunto siamo spaventati o se qualcuno presume che un fenomeno qualsiasi, tiro a caso l'emigrazione, no? sia una realtà che ci è scoppiata tra le mani adesso, mentre invece tutti coloro che hanno un briciolo di conoscenza della storia, del passato, sanno che è un fenomeno ricorrente, che ha avuto ondate particolari, che certamente ora si presenta in forme diverse, ma che, insomma, facciamo un esempio che ci è più familiare, la Vienna di inizi Novecento. Non c'è nessun viennese cioè, mi scusi, la metà dei viennesi non è nata a Vienna, per dare un'idea della straordinaria trasformazione demografica di una grande città, che allora beh, ha 2 milioni di abitanti, una grande metropoli, però trovi una città italiana nella quale i residenti, nessuno dei residenti sia nato in quel posto. Le sembrerebbe una ipotesi, com'è, impossibile da verificare, eppure questo è quello che ci raccontano. No? E dunque, ecco, questo secondo me significa alzare un po' il livello del dibattito, ecco, no? Anche qua è una citazione di un grande storico che a un certo punto scrive un libro bellissimo, complicato, e alla fine conclude: sì, non sono certo di aver raggiunto in questo libro gli obiettivi che mi ero prefisso, forse non sono riuscito neanche a toccarli tutti, a trovare una verità, se c'è una verità, però almeno ho alzato un po' il livello del dibattito. Ecco, mi pare che il compito degli storici sia fondamentalmente un po' quello, cioè quello di non essere, di dire delle parole un po' pacate, un po' sagge, cercando di naturalmente di mettere a fuoco certi avvenimenti, quelle cose che sembrano più terribilmente nuovi, dicendo beh, ma forse se li misuriamo, se cerchiamo di comparare, se guardiamo un po' quello che ci accade, quello che è accaduto non una settimana fa ma un anno fa, se cerchiamo di vedere che insomma la situazione che stiamo vivendo però non è tanto dissimile da quella che stanno vivendo altri paesi, ecco, mi pare questo sarebbe già un buon contributo, ecco, credo, alle cose. Quindi capisco la sensazione di sconcerto, un po' di difficoltà a maneggiare le fonti, però io penso che possiamo riuscirci tutti quanti, insomma, comprendiamo sì. Un po' così. Marco, se posso aggiungere una cosa su questo, questa sensazione di disorientamento che abbiamo tutti è anche un po' frutto della logica industriale di produzione delle notizie, no? Noi siamo immersi in questo flusso continuo di notizie che vengono anche costruite volutamente in maniera drammatica per essere vendute sul mercato delle notizie, no? Ormai le notizie sono un po' come i prodotti cosmetici, come spazzolini, come il dentifricio, dobbiamo vendere sul mercato e per venderle in questo modo io devo costruirci intorno un carico emotivo, no? Questo è un elemento che chiaramente ci disorienta. Il vantaggio dello storico, e noi facciamo gli storici apposta per questo, no? Ma lo storico può poter giudicare quando le cose si sono un po' sedimentate, no? E questo ci consente di fare una gerarchia anche tra gli eventi che sono più effettivamente importanti, quelli che hanno dato una impronta più significativa a quello che è successo dopo, e quelli che hanno contato di meno da questo punto di vista. È proprio l'esempio che faceva lei sulla crisi del 2008. Quando la crisi è scoppiata, i parallelismi tra la crisi degli anni 20 e 30 e quella crisi in corso si sprecavano, tutti parlavano di questa cosa qui. In realtà oggi sappiamo tutti benissimo che non c'è confronto tra i due episodi, che la crisi degli anni 30 è stata estremamente più grave per le conseguenze che ha avuto anche di tipo di natura politica e anche per l'impatto che ha avuto sulla teoria economica. Perché il contesto era diverso, perché la modalità di reazione è stata differente. Però c'è avuto qualche anno, no? C'è avuto un po' di tempo per riuscire a capire quale impatto ha avuto quella crisi su quello che è venuto dopo e per fare poi paragoni con quello che era accaduto prima. Bene, a me dispiace moltissimo, dico veramente, dover interrompere qui perché ci sarebbero ancora tante cose, io stesso volevo chiedere qualcosa a Marco, ma adesso magari gli offro da bere così ne approfitto poi per fargli ancora qualche domanda, ma sono le 7, dobbiamo veramente, veramente chiudere, e ringrazio tutti voi per aver partecipato, ricordandovi appunto che a ottobre saremo ancora qui, ci sarà quindi questo ciclo che riprende e parleremo di storia medievale, di storia greca e anche di storia economica. Grazie ancora a Claudio Augusta e grazie a voi.